superstar, il microfono è un MB più 4, un MB più 5 modificato, e l'antenna è una Game Master. Ecco l'antenna, io purtroppo l'antenna uno della Mantua 5, mi spettacolo l'ho messo da parte, purtroppo non sono, come dire, tutto qua. Vediamo l'altro amico, sì, vediamo, me l'ho scritto, ma non ricordo, ecco, ma è già l'altro amico, sì, già, tutto qua, ma è già l'altro amico. Vai Riccardo, a te, ti rilancio Riccardo, l'amico si chiama Riccardo. Angelo, aspetta che metto la posizione più alta per se mi ricevi meglio, datemi un secondo che arrivo subito. Ok, non c'è problema. Dove ti trovi la tua città, mi ha detto Angelo, mi ha detto provincia di Siracusa, la città dov'è? Sì, ho capito, sei distante dal mare, noi siamo vicini al mare, circa 15 km dal mare, siamo al nord della Sardegna e la città è Sassari. Mi ha detto tu sei circa 50 km da sud-ovest di Siracusa, sei lontano dal mare tu. Buonasera Angelo, hai capito? Avanti Genova, buona buonasera. Qua non lo sentiamo. Magari sentissi Genova, c'ho tanti amici di lì. Stasera abbiamo collegato Roma con sé. No, Roma mi è capitato, Genova mai, non mi è mai successo. Attento Genova se copi la città di Sassari, avanti! Aspetta, diamo appena qualche cosina di più, vediamo un po' se mi ascolta Genova, attenzione Genova se copi Sassari. Sto saturando. Aspetta che abbassiamo un peluzzino, forse è troppo, ancora? No, adesso fammi. Hola? Lo devo portare a farlo riallineare questo giocattolo, qualche problemino, ogni tanto bisogna farlo. Ok, attenzione Genova, copi Sassari. C'è troppo VM e la propagazione è un mito di e mi ascoltate grazie dagli altri amici di saluto. E per noi. Grazie di avermi risposto. Ciao e buonasera. Ciao Angelo, un piacere averti collegato, dai, magari un'altra volta con migliori condizioni ci risentiamo, dai. Saluto a te e QRA, avanti Roberto. Sì, ben sentito Angelo anche da parte mia, 7351 a te e alla tua famiglia, vai, ci risentiremo se capita in altre situazioni, magari anche con tempi più lunghi. Ok, avanti Riccardo. Ok, ciao Angelo, 7351 e assoluti a tutto il tuo correa familiare. Avete parlato in due, aspetta, ti rilancio Riccardo, Angelo, che avete parlato in due, avanti Riccardo. Saluto ad Angelo, 7351, ci sentiamo in condizioni migliori, che sta calando la propagazione, e saluto tutto il tuo correa familiare. Ora, sto saturando ancora. Ciao Angelo, dai, saluta tutti gli amici che ci sentono, dai. Salutali tutti da parte nostra. Hola? Hola? Attenzione, c'è stato un break. Andate break. Avanti break. Avanti. Telefono per me un attimo. Parme 2, dai, 7351, la stazione doppio run alla Sardegna, città Sassari, che ti super cordializza, avanti, in compagnia di Riccardino e di Roberto Quadratto. Vediamo un pochettino se mi hai ascoltato, perché io ti ascolto un po' basso, eh. KK, ti rilascio l'amico Riccardino per i saluti, avanti Riccardino. Ok, saluto l'amico, se mi può ricordare il QRZ che mi sono scordato, la voglia. Comunque lo saluto 63, a te ti rilancio per espormi il tuo QRZ. Già, com'è che si chiama? Facci reale per il paese, però non ho sentito il nome. Attenzione amico di Arci Reale, com'è il tuo QRZ? Sono rientrato. Non lo sento più. Ehi Robe, c'è Arci Reale, prova a vedere se la scuola. Ma Rogero, ti ascolto adesso, dai. Il tuo QRZ non l'abbiamo copiato, avanti. Allora, il mio QRZ è Gianni doppio room, stai arrivando con un segnale di 9.10 adesso, con QSB, 9.10 sei arrivato, alla radio 5, avanti. Roger, Gianni, da dove stai modulando? Io qua in provincia di Catania. La mia zona è Sardegna, città Sassari. KK, dai, vi passo l'amico Roberto da Sassari, qua c'era un questo, qui ti passo gli amici per i saluti, avanti Roberto. Sì, ben sentito, da parte mia qua Roberto, città di Sassari, suo segnale 9, radio Super 5, ottima radio, chiedo anche un ricambio a te di rapporto di segnale, se me lo puoi dare. Ok, ti rilancio adesso a Riccardino, il più giovane qua dalla frequenza. Avanti Riccardino per l'amico Rosario della provincia di Catania. Ciao Rosario, ben ascoltato, 73 per te. Ti volevo chiedere qua al Fa 21, ti volevo chiedere un rapporto di segnale. Comunque tu stai arrivando a questa antenna un Santiago di 9 e una radio di 4, oscillante a 5. Ma chi te l'ha fatto abbassare la radio? Ma chi sta dicendo? A me qua? No, Riccardino, abbasso di radio. Ehi, capa Rosario, dai! Io adesso vi saluto tutti cordialmente che devo scendere giù a portare il cane, dai! Vi saluto tutti, Rosario, mi ha fatto piacere il QSO. Ci sentiamo alle prossimine, avanti Roberto, saluti anche a Claudio, avanti Roberto e poi fai girare. Ciao Gianni, ciao. Buon proseguo di serata, avanti Riccardino. batteria, ciao già. Cla, stavi dicendo che sono basso di radio. Sì, se stai usando la radio che dico io, sei basso, vuol dire che l'hai abbassata di nuovo. Non c'è niente da fare. Ma non ho toccato niente, ma se me l'avevi svincolata non l'ho toccata. Oh, il carro è Santiago 5, il mio CD come prima, non ho toccato niente. E il microfono a quanto ce l'hai? E ho il microfono a 4. E allora avvicinati un pochettino, non modulare molto lontano, ciao Gian. Non lo toccare così perché vai benissimo. Non c'è nessuna regolazione da fare lì. Va bene, dai, continuate, stavo ascoltando, era solo per dire a Riccardo che mi sembrava che stavo facendo basso di radio. Va bene, grazie Claudio. Come dire, va meglio se me lo date il consiglio, non a stare, come dire, zitti e non dirmi che sto uscendo basso. Va bene, comunque saluto di nuovo a Gianni. Buona carica quando la fai e fate anche il calcio. Va bene. Continuate, ciao a tutti. Ciao Claudio, ho sentito anche a te. Riccardi, a 4 c'hai il microfono della radio? Sì, a 4, il microfono è a 4. E il carrier da quanto è? Come dice Claudio, a Santiago 5. No, a parte Santiago 5, l'indicatore a quanto è? Non è a indicatore quella radio, Santiago 5. Non c'ha il potenziometro con la potenza e con il Mickey Game. Allora, troppe domande fai, Robè. Santiago 5. Eia. Minchia cazzo. Sì, vabbè, Santiago 5 è un'altra cosa. Vabbè, stiamo dicendo due cose diverse. Ho capito quello che vuoi dire tu, però io stavo dicendo un'altra cosa. Non ne ha come da quello che ci abbiamo io e tu. Ok, non ne ha. Segnalazione di power, quella lì non ne ha, quindi il riferimento è Santiago 5, c'ha solo il segnale, praticamente lo smitter e l'LC, non ne ha, basta. Ok, chi c'era, qualche altro qua sul 9, poco, sul 9, sul 10? Io lo so a memoria quello, Santiago 5 equivale a 20 watt, basta. Eia, ma c'era qualcuno Riccardi poco fa, io mi sono annotato 5 minuti. Ma niente, riesci a finale, vabbè c'è un po' di provocazione, ma era bassina e niente, no, e poi non c'era nessun altro. No, parlo di Sassari qua, mi sembrava la voce o di Antonio o di Emanuele, uno dei due. No, non è entrato nessuno, c'era io e Gianni mentre eri via. Boh, allora ho capito male io, dai. Ok, cosa volevo dire? Basta, altri, c'erano questi qua di Siracusa, volevo collegare Genova, però li ho sentiti lontanissimi perché non mi è mai capitato di collegarla, c'ho tanti amici di lì. Un attimino di bianco, scusate un attimo. Rieccomi. Che fischia? Chi sei? Leone hai detto. Scusa, non ho capito, Leone hai detto. Da Itini, ci siamo già sentito un'altra volta, mi pare, o sbaglio? Purtroppo tu sei 9, ma qua c'è gente che arriva a 9 più 10. Dimmi il nome, ricordami il nome, Leone. Sì, Tonino, infatti mi ricordavo che c'è un altro di Tonino, però qua purtroppo, qua quando ci parlano, stai parlando tu molte volte ti sovramutano, c'è qualcuno in FM qua che spinge forte. Tonino, non ti ho ascoltato, c'ho gente più forte qua, sei 9 quasi 5, però c'è gente che è sopra le 9.10 qua, e non so se siano, non ho capito di che lingua stiamo parlando perché sono un FM. C'è solo più un po' la radio, puoi fare qualcosa per migliorare la radio? Aspetta, c'è anche Riccardino, vediamo se lui ti ascolta meglio. Riccardo, ci sei? Attenzione Riccardino. Nuda, ok, riprendi tu Tonino. Aspetta il telefono un attimo, scusa. Fabrizio, perché mi è venuta una curiosità riguardo di un cavo di alimentazione. La cosa fai che se tu l'ascoltare metto l'altro in Italia. Ecco, mi dai, ho mandato un messaggio. Aspetta un attimo, che stacco è assolutamente. Ehi, aspetta, vai a bermi un bicchiere d'acqua nel frattempo. Attenzione Roberto, ci sei? Hola, attenzione 10. Roberto, sono tornato con il Midland. Catania in radio, questa è una bomba fortissima. L'altra è più chiara, ma questa è una bomba. Scappa, vabbè. Oh, se vedi, mi sono fatto la collezione adesso che ho anche un altro Turner P2U, perché ne avevo già un altro, però non funziona bene. E questo almeno, visto che non funziona bene l'altro, uso come ricambi quello che è più nuovo. E tutto questo macello di rumori, cosa è successo? I cani come abbaiano quando vedono qualcuno, sono cani a caccia, i bassetti. Ah, e quelli cosa sono, australiani, pastori australiani? Sì, gli altri, quelli paccocconi, sono i pastori australiani. Ma sono bravi, sono cani da compagnia, non sono da guardia. Bah, se viene uno sconosciuto ti leccano, non ti mordono neanche, non si azzardano. Sono belli, molto belli poi, sono belli intelligenti di vero. Sì, quelli sono molto intelligenti, come dire, la uso soprattutto per fare agility. Non ho capito. Che il mio cane, il pastore australiano, abbiamo avuto un po' la figlia e la tengo per fare agility, visto che sono molto intelligenti. Ehi, aspetta, se qualcuno vuole entrare sul 10 nel frattempo. Non c'è nessuno, stranamente in questo periodo, vabbè, tutti stanno andando in giro la sera. Andare, qualcuno va in moto, qualcuno va a fare la passeggiata, qualcuno se ne scende a prendersi il gelato a Platamona. E non lo sai che è così? No, io questi giorni sono un bel stanco. Poi ieri mi dovevo uscire sabato col camper, ho detto me ne vado da sabato, poi ero troppo stanco, ho dormito male la notte, ho detto no, mi riposo. Poi sono uscito tardi il sabato, poi la domenica mattina, tra gira, la domenica mattina ero stanco, ho detto va a far Napoli, rimango qua. C'era troppo caldo, non avevo voglia di fare strada. Ho capito, bisogna avere, perché di solito la stanchezza ti prende anche in campeggio, poi dopo quello che è successo qualche giorno non ho dormito, qualche notte, non ho preso subito sonno. Ma aspetta, ricordi che mi è caduta della roba in terra, sono bagnato in terra, scusa, eccomi. Hola, hola. Ula. Questo che cos'è che sto utilizzando? Il Midland. Bello, mi piace lo stacco che fa questo microfono. Ah, questo microfono, il Turner, ti piace come stacca con questo Midland? Sì, sì, c'è proprio punk. E beh, devi ancora cenare tu, Riccardo. Sì, è ancora presto. E come dire, adesso è l'ora a cui mangiano gli anziani. Ma guarda che l'inverno ce l'ha tardi. Dipende, a momenti, quando mi prende. Così, vabbè, l'estate ci sta, ma cacchio, l'inverno a cenare così tardi, poi domani mattina ti devi alzare, è un po' scomodo, eh. Tu a scuola te la andavi, a che ora ti alzavi per andare a scuola? Dipende, qualche volta di solito mi alzavo verso le 6, perché poi anche andavo con babbo a dare da mangiare i cavalli, poi ci vestivamo, capito? Sì, più o meno le 6, 6 e mezza. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Cacchio, è pesante così. Adesso d'inverno non ci, d'estate non ci vai a scuola, ma se fai queste ore piccole come le fai adesso, come fai a alzarti adesso del mattino? Mi sveglio che sono uno zombie. Perché anche se sei giovane, però a tenere questi ritmi come fai? Ai cavalli tutti i giorni li date da mangiare? Tutti i giorni, sì, perché praticamente poi il fieno se lo spostano con il muso lontano e poi hanno il collo corto, non riescono ad arrivarci e quindi dobbiamo avvicinarglielo con il forcone. E come fate per dire se state 2 o 3 giorni fuori col camper? Gliene metti tanto vicino, non è che non c'è problema poi. Quanti giorni riescono a rimanere senza che ci siete voi? Quelli riescono a rimanere, per dirti, veniva il vicino, veniva più o meno 2 volte alla settimana, siamo rimasti pure per 2 anni, quando 2 anni, 3 anni, quando eravamo a Palmanova, e come ho detto il vicino veniva 2 volte alla settimana. Ah, c'è qualcuno quindi che vi ricurava i cavalli. Cosa volevo dire? Per l'acqua come fate? Solo per l'acqua. Ma c'hanno una bacinella, quando loro la prendono l'acqua, una vasca? No, hanno la mangiatoia, quello spruzzatore, basta come mettono il muso, è collegato alla pompa e che come cliccano, che mettono il muso dentro, esce l'acqua automaticamente dal pozzo. Quindi loro sono abituati, lo fanno, non c'è bisogno di andare ogni giorno a mettere l'acqua? No, non c'è problema, basta che queste mangiatoie che abbiamo. E se si rompe la pompa come fa? Non si è mai rotta la pompa, non c'è problema, quello è grande. È brutto l'animale, se poi si trova senza acqua, tu fai conto, state 3-4 giorni fuori, tu convinto che lui sta bevendo, poi vai a vedere e non esce l'acqua. Sì, non è mai successo, comunque può succedere, però comunque tranne che quello abbiamo anche il vascone, quello grande, il vascone, vabbè, abbiamo dei recipienti grossi, qui mettiamo l'acqua anche da lì per sicurezza. Infatti è sempre bene prevenire, può capitare un qualunque mancamento di cornetta elettrica o cosa del genere, sempre meglio non fidarsi mai, soprattutto quando ci sono degli animali. Certamente. Si sente un po' di propagazione, il calato prima era molto forte, c'era, come si chiamava, da Catania, Angelo, sì. Sì, era in provincia di Siracusa, uno, l'altro era vicino a Catania, uno era a Gela, dai. No, l'ho sentito, volevo sentire Genova, io ho tanti amici carissimi di lì, e tra l'altro uno di questi era CB, ci sentiamo tutte le settimane, e volevo capire, perché Genova non l'ho mai collegata, si sentivano in sottofondo, però non so se loro mi abbiano sentito, io li sentivo bassissimi, cioè c'erano sovrapposizioni, perché è rara, cioè io Genova non l'ho mai collegata. No, infatti è difficile collegarla, mi sa che non l'ho mai sentita neanche io, tranne oggi. Guarda, anche Roma, che per dire, come distanza è molto più vicino della Sicilia, della Calabria, della Puglia, eccetera, Roma è più difficile da collegare che paesi molto più lontani. Infatti, questo posto non ne ho mai sentito, soprattutto si sente, vabbè, come propagazione più vicina, la maggior parte delle volte è, Spagna, poi avevo sentito diverse volte Sicilia, poi le prime volte quando ero dalla macchina, non mi ricordo neanche se mi sentivo. Forse no, quando la provincia di Lucca, quei posti lì anche. No, diciamo, lo sai, dall'Italia molte volte riesce a collegare l'Alta Italia, cose così riesce a fare, soprattutto normalmente dal coso, dalla Calabria in giù, Basilicata, Calabria e Sicilia, quello è abbastanza frequente. Rarissimo invece, proprio io non ho mai collegato la cosa, la Liguria, è come rarissimo collegare, difficilissimo collegare la Corsica. Infatti anche la Corsica non ho mai sentito, Francia la parte nord, però Corsica mai. Una volta solo mi è capitata, credo che era Iaccio, io ci sono andato per decine di anni in Corsica e ti posso dire di antenne CB ce n'erano forse una, ne ho visto uno o due. Poi tra l'altro ci sono pochi abitanti, in Corsica ci sono 300.000 abitanti ubicati nelle principali città, tenete presente Iaccio e Bastia hanno più o meno 60-70.000 abitanti, 70 più 70 siamo già a 140.000 abitanti, gli altri paesini sono tutti di 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, un po' Bonifacio qualcosina di più, per cui fai conto con tutti gli abitanti, sono distribuiti in pochi paesini, normalmente sono paesini montani, perché a parte qualcuno vabbè che c'è anche nella costa, però sono tutti montani i paesi, di lì sono un sacco di montagne alte, in Corsica ci sono montagne anche quasi 3.000 metri, c'è il Monte Cinto e sono 2.800 metri, per cui la propagazione dell'onda elettromagnetica è un po' difficoltosa. Dai. Ho capito, e in Corsica ci dovevo andare con la scuola e salta tutto grazie al coronavirus. Ah, oggi è bella, dai. Per chi piace la natura, la Corsica è molto bella, c'è un bel contrasto tra la montagna e il mare, e quella è la cosa più bella, c'è tanta acqua, ci sono delle belle cascatine, dei bei fiumi, l'acqua è buonissima, poi ottima l'acqua, non ne ho mai trovato acqua cattiva in Corsica, e al contrario della Sardegna in molti posti l'acqua è salmastra, ferrosa, eccetera, solo se vai un po' all'interno nell'entroterra trovi acqua sempre buona, però è bella, la Corsica a me piace, la popolazione è abbastanza simile a quella sarda di tanti anni fa, molto riservata, molto chiusa, però se riesci a diventare amico e c'è gente, brava gente. Ah, ho capito, e vabbè che forse c'erano i motivi, però non ho mai capito perché gli italiani odiano così tanto i francesi, cosa gli hanno fatto? Ci sono tante storie di lì, poi la Corsica è stata italiana per un periodo, poi è stata, quando c'era Napoleone, è stata ripresa dai francesi, prima ancora era i francesi ce l'avevano presa gli italiani, è stata un paese invaso da tante, come è stata la Sardegna, è stata colonizzata dagli spagnoli, di tante nazionalità, diverse cose, dai fenici, infatti noi abbiamo un sacco di cultura di altre religioni e di altre cose, perché sono venuti un sacco di conquistatori da noi, dagli spagnoli, gli ultimi sino ad arrivare ai tempi prima, i fenici, eccetera, eccetera, cartaginesi, e anche arabi, diciamo turchi e cose del genere, infatti se noti in Sardegna è pieno di torrette di avvistamento, molte proprio per questioni di sicurezza, poi sono entrati gli aragonesi, eccetera, eccetera, e poi prima ancora c'erano queste storie dei nuraghi che ancora non sappiamo niente di preciso. Sì, ho capito, cioè ci sono molte storie dietro. Sì, no, la Corsica, al contrario di nostro, però la Corsica non ha grandi tradizioni archeologiche, non vedi niente, cioè una terra magari antica, sì, però non vedi delle costruzioni come le puoi trovare in Sardegna, nuraghi, costruzioni tipo Domus de Janas, oppure delle cose di pietra, dei monumenti di pietra. In Corsica io non ho visto niente di tutto questo, stranamente siamo attaccati, è questo che colpisce tanto. Ho capito, sì. Come l'hanno descritta un po', si capisce che molte, da come l'hai descritta si capisce un po' di cose gli mancano, però strano che, come dire, la colonizzazione era vicina e non c'è proprio un qualcosa di nuragico, vabbè, qualcosa di antico, niente, nulla. Lo sai cos'è la Corsica? È molto impervia come isola, non è come la Sardegna, qualche pezzo di pianura coltivabile, lo trovi, direi è tutto montagne, colline, rocce, eccetera, eccetera. Per cui uno che va a conquistare va a cercare il frumento, cioè prima si cercava il grano per piantare, eccetera, eccetera. E purtroppo di lì non è che ne trovi più di tanto di queste cose, non ce ne sono pianure, sono terreni molto rocciosi e molto montagnosi, per cui certi tipi di agricoltura, prima ai tempi antichi l'attività era solo l'agricoltura, adesso ci sono le industrie, ma prima centinaia e centinaia di anni fa o migliaia di anni fa l'unica operazione, per darti della resa, era l'agricoltura, di lì dove coltivi, in mezzo alla roccia, è come che tu te ne vai a Capocaccia, di lì tutto pieno di rocce, o a Trentino, e cosa coltivi? Ho capito, sì, lo so che la zona della Corsica mi hanno spiegato che è un po' impervia, già da, mi sembra, superata ghiaccio e impervia la strada, soprattutto anche lì, e tutto, colline, queste cose. Sì, no, le due città sono importanti, sono solo Ajaccio, che si trova più o meno a metà strada nella costa occidentale, e poi c'è Bastia in alto, in cima, che è la parte più alta della Corsica. Sono le uniche città, diciamo, abbastanza evolute, perché se vai negli altri punti sono dei paesotti piccolini piccolini, carine, e forse Corte è l'unico paese un pochettino che ha un po' di cultura, diciamo, c'è una specie di università di lì, diciamo, qualcosina un po' più dalle altre parti, perché anche Ajaccio non è che sia una città ricca di storia, dai tempi di Napoleone qualcosa hanno fatto, perché Napoleone è nata da Ajaccio, c'è qualche monumento, qualcosa, ma niente di più, non trovi cose proprio di epoca romanica o di cose, almeno io non ho visto niente, poi non so se ci sia dalla parte di su, non lo so, ma non credo proprio. Ho capito. Comunque, passando a un altro discorso, Roberto, quindi hai detto alla fine un po' te ne intendi di fotografia, quello che mi hai detto, non sarà un campo gigantesco, che ne sai, però qualcosa la sai. Diciamo, io leggo tanto, dai, sono una persona che mi informo, cerco di essere abbastanza informato, diciamo, di qualche cosa, non dico di tanto, ma di qualcosa, cerco l'argomento, se devo dire la mia devo aver letto qualcosa, non mi metto a parlare di cose che non so. Diciamo, fotografia, qualche piccola esperienza, già me la sono fatta. Capito, vediamo, va bene, forse non ci sono le condizioni, ho fatto due foto a vedere come sono uscite, dopo le guardo. Vabbè, ti ripeto, in condizioni di luce di stessa luminosità, molte volte è meglio un cellulare, perché c'ha dei sensori molto più performanti rispetto a una macchina fotografica. La macchina fotografica deve aumentare i tempi di esposizione, per cui solo in quel caso riesce a fare delle foto. Infatti qua molte volte, quando vengono i periti di assicurazione, prima portavano tutti macchine digitali, alla fine si sono resi conto, quando devi fotografare un punto nascosto sotto la macchina, che ti mettono il cellulare, metti a fuoco istantaneamente, tac, prendi e vai, c'hanno come si chiama, stabilizzatori digitali dell'immagine, fai in un attimo, fa la foto, mentre prima con quelle, diciamo, macchine fotografiche dedicate è un po' di più difficoltoso per mettere a fuoco, stabilizzare l'immagine, eccetera. Però tutto dipende da cosa devi fare. Ho capito, vediamo se riesco a passarti mia sorella. Dove è tua sorella? Fammela salutare, dai. E tuo mamma non c'è? Hola? Ciao Roberto, come stai? Ciao Francesca, ciao, ben sentita anche a te, una bellissima voce, dai. Grazie. Bella, dai, sono contento, dai. C'ha una voce più forte di quella di Riccardino. Riccardino, tra poco ti prende il posto tua sorellina. Riccardino, fuggi. Oh sì, è fuggito. Oh, tu sei tu sei sempre tu, Francesca. Sì, sono sempre io, adesso vado. Ah, ciao, ciao. No, pensavo Riccardino, che fosse la voce di Riccardino. Riccardo, avanti a te. Lei ha la voce più grossa della mia. C'ha una voce più squillante della tua, diciamo, le femminucce sono sempre un po' più squillanti le voci. Comunque, sembrava un'altra persona, dai. Se non mi dicevi che era tua sorella, non l'avrei riconosciuta. Ah, ecco, quindi. Eia, ok, tuo babbo è in casa o vicino a te? È qui vicino. Ah, così, salutala. Roberta. Ci avevamo fatto una bella chiacchierata con Riccardino poco fa, chiedendomi informazioni di fotografia. Adesso si sta interessando alla fotografia, non gli bastava questo. Infatti gli ho detto qualche cosa, gli ho dato qualche dritta, dai, diciamo è bello ognuno che abbia un po' di interessi, dai, sono contento. Io ne ho truppi, te l'ho già detto tante volte, Najmuru truppi, però diciamo quegli interessi cerco di coltivarli, nel senso di informarmi in modo che non faccio brutte figure quando capita l'argomento. Quello sì, però poi insomma bisogna cercare di portare avanti un pochettino concorrenza, le passioni, se no ne prendi una, ne molli un'altra, poi alla fine. Lo so, guarda, se mi metto a fare le link di tutte le cose che devo fare o che ho fatto, guai, non mi mancherebbe, cioè a me una giornata di 24 ore è troppo limitata, ce ne vorrebbero almeno tre giornate per fare quello che normalmente si dovrebbe fare. Quello sì, lo so, me lo chiedo sempre come fanno alcuni a stare col gomito appoggiato a un bancone dentro un bar. No, guarda, a me sinceramente, io sono un uccello in gabbia, in quel periodo del coronavirus, meno male c'era la sera, attaccavo con la radio, se no avrei fatto altre 3-4 cose, non sarei mai riuscito a stare fermo. Non, cioè io ho la mente mia che lavora anche quando sono addormentato, penso cosa devo fare, come posso migliorare oppure perfezionare quella cosa che sto progettando e cose, però quando le faccio le cose cerco di averle calcolate, sono molto calcolatore in tutte le cose, anche nelle piccole cose, cerco sempre di trovare un perfezionista, dai, per certi versi può essere anche un difetto, però non mi piace il disordine, le cose mi piace sempre trovarle a portata di mano, infatti molte volte quando vado a toccare le cose ci metto una mano a mie figlie, buh, dico chi cacchio ci ha messo le mani, sono lasciato qua, perché lo trovo in questo modo? Mi dà fastidio. Ma poi la cosa più assurda è che molte volte quando fai qualcosa che ti piace, che la fai con passione, il tempo vola, prende a un altro aspetto, le ore sembrano minuti, diversamente invece da quando fai qualcosa che ti annoia non passa mai il tempo, quindi cambia a seconda del punto di vista di quello che fai. In questi casi proprio il tempo vola, molte volte ti rendi conto, cioè non ti rendi conto del tempo che passa. Sì, lo so, ma molte volte per dire, io sono talmente stanco la notte, ma proprio io te l'ho detto, dormo malissimo, molto sonno, mi sveglio durante la notte, poi non vedo l'ora, anche se sono stanco molto, perché domani devo farmi quella roba lì, per dire quando sto facendo il camper o altre cose che mi interessavano, eccetera eccetera, non vedo l'ora, non che fosse nel domani, per dire, cacchio, così domani mi butto sotto su quella roba lì, eppure mi stanco molto. Lo so, ti capisco, perché anche a me succede la stessa cosa, che quando sei preso da una cosa poi non vedi l'ora di iniziare, di finire, di portare a termine un progetto, ma è normale, questo. Adesso per dire, questo fatto del camper, sono partito alla grande all'inizio, poi mi sono bloccato perché non avevo tempo di farlo, poi c'è stato il coronavirus, quelle 3 settimane ho fatto tutto quello che non ho fatto nell'arco di un anno, perché il camper doveva essere finito dall'estate scorsa, l'ho preso a novembre di 2 anni fa, novembre del 2018 l'ho preso, quello lì, adesso fa quasi 2 anni, anzi ottobre 2018, e dicevo dai, con l'estate 2019 ce l'avrò invece domani, e mi è rimasto quasi fermo. Poi queste 3 settimane ho fatto quasi tutto il lavoro che avrei dovuto fare in 6-7 mesi, adesso manca poco perché devo mettere sul piatto doccia, ho fatto la base, tutto quanto devo mettere la schiuma e tutto, e poi, anzi prima di quello devo mettere il colo caucciù per sigillare tutto, per rendere impermeabilizzato, e solo dalla settimana scorsa che lo devo fare, e non riesco a farlo per dire, e non vedo l'ora di finirlo, così ho detto basta, poi parto con l'impianto elettrico e vado. E infatti, ma lo so. Se inizi un lavoro di quel genere lì, in ore continuative ci vorrebbe almeno una settimana minimo, non ti basta neanche. È chiaro che se la diluisci nel tempo con gli altri impegni che hai, i lavori si protraggono a lungo e sembra che non finiscano mai, ma poi tutto sommato è relativo all'impegno che metti, perché un'ora oggi, un'ora domani, insomma poi alla fine i giorni passano. Già lo so, poi sei molto stanco adesso poi col caldo, allora ho detto sì, mi metto e mi faccio qualcosa, nulla. Ieri mattina mi ha fatto una fesseria, stavo per uscire, perché dovevo uscire col capo e poi non avevo voglia, dai, mi sigillo questa roba, ho fatto una specie di pannellino, la chiamavo pannellino, una copertura col plexiglass, tutto quanto, me l'ho tutto sagomato e me lo sono incollato. E ieri ho detto, adesso gli do un'altra passata nel bordo, e 10 minuti l'ho preso e l'ho fatto, se no magari non avrei avuto tempo neanche di farlo oggi quella roba lì. Però sono soddisfazioni, dai, posso dire che tutto quello che c'è di lì dentro è fatto da me, con le mie mani, tagliato, aiutato è fatto, tutto quello che vedi non è niente del che nessuno mi ha aiutato, e quando l'ho finito dirò, questo me lo sono fatto io da solo, senza trovare l'idraulico, l'elettricista, il falegname o cosa ti posso dire, l'elettrotecnico. Ecco, non mi vuole, ho capito. E lui a lui, Fabio. Buonasera anche a te, c'è in compagnia di Riccardino e di Sergio in questo momento. Avanti, Fabio, per il saluto. Saluto di Banca Batteria, saluto di Roberto, saluto di Riccardino, saluto di Sergio. Avete parlato in due o c'è qualche problemino, Sergio, di batteria? Dici? No, adesso no, prova di nuovo a parlare. Poco fa stavo dicendo a Fabio che ci alterniamo come nelle stazioni dei cantonieri, un po' uno, un po' l'altro, secondo il passaggio del treno e gli orari. Aspetta, c'è un break di Gianni Doppio Ruma, avanti Gianni. Buonasera a tutti, Gianni Doppio Ruma. Eia, ciao Gianni, ben sentito, anche risentito, no? Sentito. Facciamo riprendere a coso, a Fabio, avanti Fabio. Ciao Gianni, ben sentito, complimenti per la radio, così pulita che sembri che ne hanno tanto a fianco. Dunque, avvicina tutta la stanza. Ok, ci siamo fatti un corso stasera anche con Gianni, adesso è rientrato, ben rientrato. Poi Riccardo si è allontanato un attimo, non so dove sia finito, quindi per il momento lo sostituisco io, così non lasciamo spazio. Avanti, vai Roberto. Guarda che ti mette la portante, non ti fa parlare con nessuno Riccardo, Sergio. Ma infatti poi quando non è qua vuol dire che sta facendo qualcosa, sta escogitando qualcos'altro, e poi la cosa mi preoccupa. Eia, poi chissà, visto che c'è le antenne in Italia, quando sono 20 metri ci sono, Sergio. Sì, esatto, siamo così, una ventina di metri, dai. A tu, chissà come va in saturazione, state attenti, se per dire siete con due baracchini diversi, uno alla stazione e uno all'altro, c'è uno la portante e gli spacchi lo stadio d'ingresso del ricevitore. No, infatti ne approfitto così, a volte l'ascolto, oppure parlo un attimo dalla macchina, che comunque tutto sommato dentro il garage, quindi un pochettino è meno, forse c'è meno. Ehi, te l'ha fatto di nuovo. Ciao, comunque Sergio, te l'ha fatto di nuovo con quel rumore strano. Cosa vuoi ti dica? L'apparato che va è il rumore che trovi. Ma che cos'è questo? Ricordami. Senti. Scusa, cos'è questo? Sergio, che apparato è questo qua che stai parlando adesso? Ehi là, sta facendo qualcosa. Ciao Fabio Master, grazie per il complimento. Bella già il doppio rubro. Che non riesco a sentirti, ti volevo mandare un messaggio stasera per la fine di cui insomma il caffè, e invece poi già lo sai cosa ti capita continuamente. Lo immagino, Fabio. Lo so, purtroppo sei un po' segregato, eh. Vabbè, adesso lo prendiamo il tuo caffè lungo, il tuo caffè lungo. E così è, Roberto, tu non mi vuoi, ti metti a fare tutti i lavori. Senza di me, io. Guarda, ieri stavo macinando col cervello e voglio fare una cosa innovativa. Anziché utilizzare cavi normali e fibre ottiche, in modo che c'è una cosa all'avanguardia. D'accordo, per i comandi non è male. Hai già studiato cosa fai, tu Arduino o preferisci cosa vuoi fare fibra ottica, i comandi o audio? No, devo capire, c'ho tante idee, ho visto, adesso non ho niente di definitivo, è solo a livello di mente, di discussione mentale. Poi voglio vedere cosa si può fare e poi valutare. Allora, se riesci, tipo progetto Arduino, ormai c'è. Allora, bene, l'alimentazione dove ci serve, arrivato a questo punto neanche roba grossa, si mette la bottiglia una parte all'altra con un cavo grosso e poi va a alimentare i vari apparecchi, eccetera. Se riesci ad avere un encoder e un decoder, magari su digitale, con una decina di relay attivati di una parte all'altra, su un pannellino, come preferisci, allora riesci a fare fibra ottica, che so, trasportare il segnale video là dietro per la telecamera di parcheggio, portarti l'audio, decidere di accendere luci, direttamente da Don Duplessa che ha un'unità di lei. Sì, sì, no, infatti le idee sono quelle lì, anche col cellulare, per dire che tu arrivi, esci che mi vuole accendere, non dico il climatizzatore perché il climatizzatore non ne ho, però ci sono questi raffreddatori, cosa gli dico? Me l'ho imposto col cellulare, tac, e mi faccio accendere il coso, domotica in parole povere, là. Guarda, sei qui, se devi una cosa ho preso, l'ho però detto. No, non me l'hai detto. Quel cubo del diavolo che sei tu. Guarda, lo sto usando adesso, ma lo sono anche girato un pochettino, perché mi stava facendo, sono senza maglietta, infatti. Pantaloncini e c'è un bel caldo questa stanza, ma l'ho messo di lì e me l'ho girato, siccome l'ho lasciato sopra un tavolino e ho messo quello con l'umidificatore, stava schizzando e mi ha bagnato un pochettino, allora l'ho messo in terra e ho tolto l'umidificatore, ma tu devi vedere che aria freschetta che ti sta arrivando. Fresca, poi io me l'ho preso perché di modifica ci metto un cambiatore dentro. Poi è comodo perché se la bacchetta, quella giustamente la uso per recuperare con me e buttarla via. Già che ti ha fatto le cose dove ci sta, se riesco a imboccarlo dentro uno, un orchipetto, che ti metto la griglia fuori, mette i comandi magari in maniera carina, che tanto fa solo che ne arrai, lo escono sempre cose più che carine ne arrai, ho imparato un po' a gestirlo. E lì può veramente venire fuori un clima e posso decidere se sfruttare il freezer del caffè per avere una riserva con una piccola pompa piccola, oppure mettere un microcompressore, così faccio anche la modifica frigo e faccio frigo con compressore e così se l'altro è un compressore. Ma ci sono quelle piattine, quelle peltier, pure uno cercando di utilizzarle nei migliori dei modi, trovando magari il foro di far dissipare il calore generato, vanno bene anche quelle. Ah sì, ho capito, perché? Ma devi mettere lo scambiatore, è lo scambiatore per perché non ha fatto qualche altro l'altro fa freddo. Infatti ho detto bene, c'è uno scambiatore, bisogna studiarlo. Bene, ma si può fare, ma ti posso dire, guarda, io sono in un ambiente, questa stanza quanti metri sarà? 4x5, sarà 20 metri quadri, con tutta la radio accesa, alimentatori, eccetera, eccetera, che scaldano le radio. E questo affare è piacevole, figurati dal campo, se te lo metti di fronte, per dire dove c'è il letto che ti curi, sopra una mensolina, cosa del genere, io sono sicuro che tra l'altro è anche orientabile, le alette, senza bisogno di metterlo a massima velocità, sono sicuro che un po' di refrigerio te lo dà. Convinti di l'acqua, quando fa umidità, vabbè, non la toglie. Vabbè, c'è chi lo usa, beh, è contento, so che è praticamente il contrario del condizionatore. Già ce l'ho, ma adesso l'ho spento, l'ho acceso poco fa, se no mi viene un malato. Sì, ce l'ho in casa il condizionatore, ma c'è di quelli a muro, dai. Eia, adesso io l'altro giorno ho letto di un climatizzatore, un brevetto italiano, rivoluzionario senza unità esterna, con recupero di calore, solo c'ha solo unità interna, costa intorno ai 1200 euro questo scherzo, c'ha solo unità interna, non c'ha scarico di tubi di niente, c'è una specie di ricircolo all'interno, non capisco il principio, cosa usa, perché lo stavo leggendo, però siccome è un brevetto, fino a un certo punto riesce a capire, è una cosa inspiegabile, nel senso che logica di funzionamento c'ha questo, perché non ha scarico di tubi per l'aria calda, è un brevetto italiano e costa 1200 euro e ha una potenza paraponabile a uno di 9000 BTU come costo, ed è un apparecchio, se tu lo guardi, te lo sei questa cosa, tipo fantascienza. No, la potenza è molto inferiore a quella di un climatizzatore normale, il rendimento è diciamo, se quello assorbe 1000, questo ne consuma 500, infatti la cosa strana è un brevetto particolare italiano, non so cosa sfrutta, se ti è presente, c'ha un'autonomia questa roba qua, non è diciamo 24 ore su 24, dopo mi sembra 8 ore, bisogna fare un lavoro, bisogna mettere quest'acqua di raffreddamento, non lo so, perché serve per raffreddare il coso, quest'acqua riaccalda che produce, perché tu se fai freddo allo stesso tempo devi creare il calore, per raffreddare questo calore che genera c'è un circuito chiuso, non so cosa fa, e ogni mi sembra 8 ore a secondo dell'utilizzo che fai vuole reintegrato quest'acqua che si mette dentro. Io mi devo arrabbiare? Non ho capito niente, Riccardo. Io mi devo arrabbiare? Ti devi arrabbiare? Vi siete dimenticati di me? Se non c'eri, ha detto tuo padre che sei andato a far scoppiare le mine e sei scomparso, infatti eravamo preoccupati. Bastava che facevi rilanciare babbo. Perché ha detto, Riccardino quando parte e non cade silenzioso sta inventando qualcosa, cos'è che ne hai buttato? Stavo misurando la stazione, cioè, per esempio quando stavo uscendo male babbo, è perché stavo misurando le stazionali su 40 con un'antenna veicolare ed ero vicino a lui. Ah, così, Mario stava creando dei problemi, stavi disturbando a tuo padre. Ok, riprendi Gianni. Ehi, hey, Riccardo mi ha detto che la passione della fotografia tu anch'io ce l'ho da ragazzo. Se vuoi una macchina buona compra la Canon 60D, che è una macchina che io ho comprato, costa un pochino, l'ho pagata sui 800 euro, però c'ha zoom e tutto qua, è bellissima. Ah, ho capito. Bisogna vedere. Datemi 10 minuti, arrivo tra poco, signore, dai, arrivo subito. Per cavi io ho fatto i cavalli in corsa, li bloccavo, senza essere mossa la fotografia, bloccati. Con la bocca aperta. Ah, ho capito, deve essere bella questa macchina fotografica, cos'è la Canon? Canon D60, D come Domodossola 60. Adesso la cerco, e Fabio tu sei appassionato di fotografia o no? No, appassionato no, però dobbiamo trovare la macchinetta. Infatti stavo fatta fuori da campo di Arrugia, e tutta con la sua borsettina, con le batterie ricaricabili, digitale, eccetera. E ho pensato, va, quasi l'ho aperto, sono 3 anni che non la tocco. Ma cos'è? È professionale come macchina? È retro? Guarda, dovrebbe essere una minolta, se non sbaglio, digitale, però alla sua età, adesso l'ha cominciato, non so che definizione possa avere, diciamo anche da grande, molto grande, con quelle professionali, c'ha il flash, per il tastino e si apre il flash, quando l'accendi viene fuori l'obiettivo, ricordo che facevo, al tempo facevo le foto di mine, ma tanti anni che non la uso, l'ho accesa, funziona, però non mi funziona. Sì, ma è un altro pianeta quello che sto dicendo io, Fabio. Quello che sto dicendo io sono macchine professionali, sono macchine che ti bloccano la macchina in corsa, il cavallo in corsa, senza muovere la fotografia, per intenderci, fanno un sacco di roba, fanno sia la macchina fotografica che la cinepresa, fanno tutti e due. E sono macchine professionali, dai. Io quella lì l'ho regalata a mia figlia, la D60 l'ho regalata a mia figlia, l'ho avuta per un paio di mesi, poi lì mi stava appresso e cose, mi piaceva e l'ho regalata. Aspetta, ma mi sa che non l'avevi accennata questa cosa. No, vabbè che non è la male questa macchina fotografica che ho. Pagata qualche mila, lo costava 200 euro, capito? È una cosa sì, la puoi portare per le macchine di movimento, e ci facciamo le foto delle gare di motocross, vedi proprio i particolari, per cui fanno staccare la ruota, quelli in movimento, l'immagine che c'è una buona macchina, si vede, capito, è sfocata. Invece con la macchina ci vuole foto tranquilla, era una bella cosettina. Non mi parlare di motocross, perché una volta sono andato a fare una gara di motocross, uno schizzo di fango mi ha preso a me la macchina fotografica e quanto c'è. Cazzo, ti puoi immaginare, io faccio il mio meccanico. Quando mi sono preso e quando l'ho tolta, poi lui è sempre bagnato, e vabbè, la passione è quella, certo che quando passano, secondo me ti metti, è finita. Ehi, io ero proprio a bordo pista, facevo le fotografie quando saltava, era proprio il primo piano. Oh Fabio, lo vuoi sentire in adesso in radio il nuovo affare che ho fatto? Un altro affare, ancora? Sì, un altro baracco. Stazione a base? No, è veicolare, 40 canali, ti mando anche la foto, se vuoi cercalo anche, Royce 639. Produzione americana? Positivo, produzione, stato del Missouri. Del Missouri, bello, deve essere una bella cosa, 40 canali, veicolare, Ma recente o vintage? Non ti so dire. Guardalo bene, perché ha un fascino di vintage e anche un po' di moderno. Ma non proprio, mi cercalo, Ronci 639, se hai il telefono, se no te lo mando, boh, vabbè. Ecco, ma è presente adesso, poi viene arrivato anche altro. Adesso lo guardo. Avanti, già. Va bene, non so quello che... Che curioso che è Gianni. Sto aspettando il vostro parere. No, adesso te lo sto mandando. Comunque, mi cercalo anche su internet per farti bene un'idea. Intanto ti sto mandando anche la foto del mio. Caruccio, ma non mi piace la posizione dello Smith. Non ti gusta? Ho detto, la posizione dello Smith non mi piace tanto. Vabbè, comunque. Cioè, calati sopra lo Smith per sotto. L'hai visto, ma... Sono negativo, avevo un po' di messaggi, sto rispondendo perché ho aperto, mi pare che quando ho iniziato a aperto rispondo un po' di messaggi e non lo guardo, poi mi capivo, me l'ho dato nuovo il nome e poi ho mandato qualcosa che si trova già. Si chiama, adesso ti mando anche il messaggio, Royce 639, e poi se ti interessa anche sapere il clone è il Sommerkamp FT340DX, no, Sommerkamp PS340DX è il clone. A me piace, a me è bellino. Giusta, mi piace. Sì, mi piace. Se mi molto al mio, come concezione, io ce lo conosci, ce l'ha fatta nel tornato. Già lo conosco il tuo. Comunque, per farti capire, che me l'ha venduto a un prezzo stracciato, mi ha venduto, a quel prezzo ci voleva solo il microfono, perché mi ha dato un turner più 2U. Quanto te l'ha dato? 50 euro tutti e due. Si può fare, 4W AM, 12 SSB. Sì, alla fine, che si parla in banda laterale, 4W, vanno bene, c'è una bella antenna, mi arrivi bene. Mi aspetta, lo faccio sentire, attacco, ce l'ho qui accanto. A me mi serve il tunnel più 2U. Ho già, te lo do subito, Aiutamela, che mi serve per un apparecchio. Ma di che non fai il gruppo? Se è la parte 1, non ha fatto più. No, quant'altro più lo stavo cercando io, ma non lo trovo nuovo. Com'è Riccardo di nuovo quello? Sì, è nuovo. La radio è normale, anche bassa. Dove sta per un po' il microfono? No, ero io che c'ho il volume basso, scusa. Però cosa c'hai? Le 22 ucce? Ma è quello palmare grigio e celeste? Stiamo parlando 35, come detto Fabio. Stai parlando, non dal microfono, che sei passo passo. Così come mi sento, sono vicino al microfono. Non è di amplificatore col microfono, è normale. Fatemi che non ascolta tutto anche la batteria mezza scena. Alza la rottettina che c'ha dietro, alza. Già, sì, che c'è la batteria mezza scarica, è anche per questo. Un po' la rottettina lo alza. No, non ha cambiato nulla. Ma è quello da palmo, quello grigio e celeste. Vabbè, quello da palmo grigio e celeste, allora lì ci va la batteria da 7 volts, cosa che non si trova. Allora, quel microfono io l'ho avuto tanto tempo fa, e praticamente ci andavano le batterie al mercurio, si chiamavano Mercury. Poi siccome le hanno ritirate le batterie al mercurio, io lo facevo andare con le batterie di macchina fotografica leggermente sottoalimentato, perché invece che da 7 mi pare che erano da 6 e mezzo, una cosa del genere, ma andava bene. È normale, non è amplificata, dai, è una radio normalissima. Ma che gain come ce l'ha? È in prime al massimo, allora la dietro. Ah, non c'ha amplificazione, no. Probabilmente sarà la batteria scarica, ma un tantino dovrebbe averlo, invece non si sente nulla. Tu la senti l'amplificazione, lo fa. No, è negativo, io era molto più alta. Adesso è molto più bassa. Io faccio anche di quelle che sto ricostruendo una parecchia, lo hanno un attimo il bagno di diciamo, quasi un detettivo che gli ha messo per pulire le macchie, e arrivo subito là. Ehi, ehi, va bene, va. Ho capito. Andava, e Riccardo, magari mettendoci la batteria non va bene.